Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona di Bologna, ma siamo in DAB, ascoltabili anche in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia. Più il web, nel quale potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it, che vi permetterà di ascoltarci in tutto il mondo, così Bologna, parte dell'Italia e il resto del mondo potete ascoltare Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che sta per iniziare. Ogni mercoledì, salute permettendo, un paio d'ore di musica registrata dal vivo, musica ufficiale, che inizia sempre con una novità. Novità naturalmente che anche oggi c'è ed è presente ed è una super novità, infatti si tratta di un triplo CD, una raccolta da parte di una band che spero vivamente conosciate e apprezziate. Si chiamavano Talking Heads, erano una band che si era formata diciamo a New York City. Inizialmente era un trio, si formarono nel 1975 e il quarto elemento, Jerry Harrison, che era stato fino a quel momento con i Modern Lovers, arrivò nel marzo del 1977. Si sono lasciati, diciamo così, nel 1991, ogni tanto fanno qualche comparsata, ma molto molto raramente, perché il loro leader, David Byrne, ha una carriera solista molto molto fortunata, a giusta ragione. Talking Heads sono stati fra i pionieri nella New Wave americana, soprattutto nella zona di New York chiaramente. Poi sono evoluti e hanno incrementato il lato world music del loro repertorio con un album epocale, come direbbero i saccenti, che si chiama Remain Light. Hanno fatto 4 album dal vivo, di cui 2 postumi. Vi consiglio caldamente anche un film che si chiama Stop Making Sense, nel quale c'è anche la colonna sonora. Stop Making Sense è un film veramente molto molto interessante, molto bello, ve lo consiglio, ripeto, caldamente. Questo nuovo album, che è triplo, come vi dicevo, una raccolta, che si chiama Tentative Decisions, Demos and Live, già il titolo dice praticamente tutto. Sono i primi passi, i primi vagiti di questa band. Infatti gran parte di questi 3 CD sono esecuzioni in trio, Jerry Harrison doveva ancora arrivare, e il terzo CD è tutto di registrazioni live, che sono tratti da 2 show che sono avvenuti, il primo nell'ottobre del 76, il secondo nel gennaio del 77, appunto un paio di mesi prima dell'arrivo di Jerry Harrison. E non possiamo non iniziare con quello che è il classico per dei classici, soprattutto della prima epoca dei Talking Heads. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Max Kansas City di New York, contrariamente a quello che dice il nome, ed era un locale storico, no? Nella Grande Mela, un locale che nel quale hanno suonato tutti praticamente coloro che facevano musica di un certo tipo a New York City. Il brano, naturalmente lo riconoscerete subito, anche se è una versione molto primordiale, diciamo così. Infatti siamo nel 9 ottobre del 1976, il brano si chiama Psycho Killer. The name of this song is Psycho Killer. Registrazione amatoriale per quel che riguarda queste registrazioni dal vivo contenute in Tentative Decisions, Demos and Live, il triplo CD che vi propongo quest'oggi come novità della giornata, ma solo il terzo CD è registrato dal vivo appunto in occasione dei primi concerti della band ancora in trio, e appunto la registrazione è abbastanza amatoriale, con tanto di gente che parla, beve, mangia, fa un po' di tutto, cosa che io odio durante i concerti. Comunque questa è un'opinione personale. Il brano, chiaramente, Psycho Killer, ha avuto un successo strepitoso mondiale ed è stato il primo grande successo, quello che ha fatto conoscere a tutti i grandissimi Talking Heads. E i Talking Heads sono stati fra i primi, fra le prime band ad avere una bassista femmina. Non è che andiamo qua a fare dei giochi di genere, ma è un dato di fatto. E questo mi ha dato il destro per ascoltarci un po' di più di bands in questa prima parte della trasmissione che hanno questa caratteristica: il basso suonato da una ragazza. Ce ne sono tantissimi, veramente tanti, tanti, tanti. E andiamo ad iniziare con una band che è un quartetto nel quale il basso è sempre stato suonato da una ragazza che è cambiata nel corso degli anni. La prima era Kim Deal, poi è arrivata un'altra che si chiama Paz Lechantine, e l'ultima invece che è arrivata da tre anni, si chiama Emma Richardson, e in precedenza suonava con una band che si chiama Band of Skulls. Sto parlando naturalmente dei Pixies, capitanati come sempre da Beck Francis. Sono una grande band tuttora, sono sciolti per qualche tempo, poi sono riformati. Naturalmente, come sempre succede in queste riunioni, il fuoco sacro non c'è più, però sono sicuramente dei gran professionisti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un promo, un extended play promo con 5 canzoni. La promozione era per una raccolta che si chiama Best of Pixies Wave of Mutilation e conteneva appunto registrazioni live e registrazioni in studio. Così è anche per questo extended play: ci sono 2 canzoni in studio e 3 dal vivo, registrati al Town and Country Club di Londra il 1 maggio del 1988. Il brano che ho scelto è un brano che a me piace tantissimo e che secondo me è fantastico. Si chiama Where Is My Mind. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Anche negli Smashing Pumpkins, nella figura di Billy Corgan, che ne è da sempre il leader, hanno questo pallino della bassista, e ne hanno cambiate diverse anche loro nel corso della loro carriera. La prima era Darcy Trotsky, poi è arrivata Melissa of der Mar e poi Nicole Fiorentino. Ultimamente da quartetto sono diventati un trio e il chitarrista Ira si è spostato al basso, quindi negli ultimi tempi questa mania, diciamo così, fra virgolette, questa caratteristica, per meglio dire, è terminata. Il brano che ci siamo ascoltati, uno dei loro classici, si chiama Tonight Tonight e arriva da un album che si chiama Oceania Live in New York City, registrato al Barclays Center dell'omonima città, appunto New York City, il 10 dicembre del 2012, con Nicole Fiorentino al basso. E ci sono diverse bassiste che fanno le freelancer, nel senso che non hanno una band fissa, ma saltabeccano in qua e in là dove vengono chiamate. Ho appena citato prima Melissa of der Moor, che è una di queste, però a dimostrazione di quello che vi sto dicendo, ho scelto una grande, ottima bassista che si chiama Sarah Lee. Lei è partita nel 1982 entrando nel Gang of Four, grandissima band, e poi ha girovagato un po' dappertutto, andando a suonare con Nanny DiFranco, con i B-52s, con gli Indigo Girls, fra gli altri, ma ce ne sono tanti altri. Ma quello che voglio farvi ascoltare è una band che si chiama League of Gentlemen. C'è stato un periodo, diciamo all'inizio degli anni Ottanta, in cui, non si sa bene perché, Robert Fripp decise di non chiamare la sua band King Crimson, ma di chiamarla in un altro modo, e la chiamò League of Gentlemen, la Lega dei Gentlemen, pur avendo appunto come bassista Sarah Lee, che è una ragazza. Però ce la andiamo ad ascoltare. Ho fatto un album live che si chiama Strang Strang Gosling Bulks, più o meno, non so esattamente la pronuncia inglese, ve l'ho detto più o meno come è scritto. È stato registrato il Mocambo a Toronto il 17 giugno del 1980. Il brano che apre tutto questo album si chiama Inductive Resonance. Abbiamo Sarah Lee al basso nella League of Gentlemen, che malgrado il nome appunto comprende una ragazza al basso. Una band un po' particolare, ma per me veramente fantastica, mi piacciono un casino veramente. Si chiama Crank Band, è un trio, viene da Houston, Texas ed è attivo dal 2010. Hanno una musica, come avete sentito, molto particolare, molto influenzata anche dalla musica orientale, anche se questo non era il caso. Hanno fatto diversi, anzi un bel po' di album live, molti di questi sono in vinile e hanno alcuni di loro hanno la particolarità di avere nella prima facciata il gruppo di supporto della serata e nella seconda facciata invece appunto il crank band. Diciamo che nella prima facciata a volte ci sono delle cose un po' così, ma sicuramente è una dimostrazione da parte della band di rispetto per quelli che sono i gruppi spalla cosiddetti. Il brano che ci siamo ascoltati viene da un doppio vinile che si chiama Live at the Sydney Opera House. Naturalmente il nome dice tutto, Sydney per chi non lo sapesse è in Australia, e sono due long play, sono stati registrati il 25, 27 e 28 novembre del 2022. Il brano che ci siamo ascoltati, con il basso predominante di Laura Lee, si chiama Lady and Man. Tre fratelli Schneebelen da Kansas City a un certo punto hanno deciso di mettere su una band e naturalmente hanno affidato il basso alla sorella perché così non lo so. E loro appunto vengono da Kansas City, Missouri, sono stati attivi dal 2000 al 2015 con la denominazione Trampled Underfoot. Era purtroppo un'ottima band di rock blues che ha fatto diversi album ottimi con Danielle, la ragazza appunto al basso, che poi ha proseguito la carriera e sta avendo un buon successo con la propria band personale, andando in giro appunto come Danielle Schneebelen. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dall'unico album live che la band ha prodotto e si chiama Live a Notodden Blues Festival. Notodden è una città che è in Norvegia. Il tutto è stato registrato il 30 luglio del 2009 e il pezzo che ho scelto per voi si chiama Love My Baby, Trample Underfoot with Danielle on bass. We'll be right back. clothes when it's down to me and the same old souls. Well, Johnny's all right if you buy him a gym. Well, he'll tell you his stories about Errol Flynn. He even danced with Marilyn. That's what they said. Double for me, another shot. Hey, hey, L.A. Who'd have thought? Who'd have thought? I would have never thought. Soon had red light with black and white roses grow. Up through the cracks, up through the broken glass. Soon had red light with black and white roses grow. Roses grow, roses grow, roses grow. There! You know, Roxy was in tonight. She be scuttling around in her fishnet tights. She's got more life at 65 than the teenage boy she keeps up all night. She said, heavy metal and a young hard cop. Well, can't you handle that kind of talk? The strip is hippin', really rough. The devil, pour me another shot. Hey, hey, L.A. Who'd have thought? Who'd have thought? Jeanette Napolitano, anzi Napolitano, che ha origini italiane, da sempre è stata la leader di una band che si chiama Concrete Blonde, brand che si è formata a Los Angeles e che è stata attiva dal 1982 al 2012 con diversi break durante questo periodo, in quanto appunto la buona Jeanette cercava di avere successo in proprio, ma queste sono cose strane. Praticamente lei scriveva tutti i pezzi dei Concrete Blonde, però i Concrete Blonde avevano successo e lei come solista no. Va bene, andiamo avanti. Lei naturalmente è quella che abbiamo sentito alla voce, ma suonava anche il basso. E i Concrete Blonde hanno fatto un album live registrato fra l'altro in Brasile, più un'antologia con diverse canzoni inedite dal vivo e una serie di singoli con canzoni appunto dal vivo. Uno di questi è quello che ci siamo ascoltati. Il singolo è guidato da un brano che si chiama Caroline. Sono 5 canzoni, 3 del quale sono registrati dal vivo al Malibu Night Club di Long Island, in New York City. Non è dato sapere esattamente quando, ma il brano che ci siamo ascoltati si chiama Roses Grow, loro erano Concrete Blonde. Ci sarebbero ancora tantissime altre band, lascio indietro, non ve lo dico perché potreste arrabbiarvi, ma comunque ci sono anche band storiche tipo gli Sonic Youth, saranno oggetto di magari di un'altra trasmissione sulle ragazze che sono il basso, insieme agli Elastica, insieme ai Galaxy 500, insieme ai Drive-By Truckers, insomma tantissime band con ragazze che suonano il basso. L'ultima che ho scelto ha un nome strano, anzi vabbè, gli americani si sa hanno questi nomi molto particolari. Lei si chiama semplicemente Zia McCabe e non so esattamente perché zia, non so se abbia ascendenze italiane o meno. Comunque lei suona il basso e le tastiere in questa band che si chiama Dandy Warhols, band che viene da Portland ed è attiva dal 1994. e ha avuto un grande successo con un brano che adesso ci andiamo ad ascoltare anche qui in Italia. Il brano che ci ascolteremo arriva da un album che si chiama 13 Tales from Urban Bohemia Live at the Wonders. 13 Tales from Urban Bohemia è l'album che ha portato tanta fortuna ai Dandy Warhols e in questo caso la registrazione live lo suona per intero. Il tutto registrato al Wonder Ballroom di Portland, la loro città di provenienza, il 20 giugno del 2013. Il brano, lo avrete già capito, si chiama Bohemian Like You, con Zia McCabe al basso e Dandy Warhols. We'll be right back. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, qualche piccolo problema con la pubblicità ma abbiamo risolto e siamo partiti appunto con la seconda parte di oggi che è il 22 aprile del 2026, naturalmente mercoledì come ogni mercoledì Città Fujiko Live Club nella seconda parte ha una rubrica che si chiama Record It Today ma inizia sempre con la novità proposta nel corso della giornata. Talking Heads l'avete riconosciuti chiaramente, la voce di David Byrne è assolutamente assolutamente riconoscibile. Triplo CD che si chiama Tentative Decisions, Demos and Live. Vi leggo quello che c'è scritto nel fronte. È una collezione della band Talking Heads che comprende demo iniziali, anzi registrazioni di demo iniziali e performance dal vivo. Questa compilation traccia la progressione della band dal punk più grezzo, minimalista, a un tipo di musica più strutturata, più angolare, con un approccio che riflette il passaggio dal post-punk nella post-punk estetica della fine degli anni 70. Tutto questo direttamente dalla prima pagina con una traduzione un po' maccheronica, ma il brano che ci siamo ascoltati si chiama Don't Worry About the Government e invece dovremmo proprio averlo. Loro erano Talking Heads da questo album che è la novità che vi propongo quest'oggi, il tutto registrato a New York City, al Max Kansas City, il 9 ottobre del 1976. Come vi avevo anticipato però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva sempre Record It Today, brani registrati nel corso di questa giornata. Non dirò più nient'altro perché ci sono tantissime cose da ascoltare, ad iniziare dalla Jiggles Band, una registrazione del 1972. Jiggles Band è una band che veniva da Worcester in Massachusetts ed è stata attiva dal 1967 al 2015 con alcune interruzioni. Malgrado la band fosse intitolata al chitarrista Jay Gills, il frontman Peter Wolf, il cantante, era quello che faceva la differenza, diciamo così, fra loro e le altre band. Sono partiti come blues band, ma poi sono diventati un po' più rockeggianti e un po' più poppeggianti anche volendo. Grande successo naturalmente negli Stati Uniti, hanno fatto 3 album dal vivo. Questo che ci andiamo ad ascoltare è il primo, si chiama Live Full House ed è stato registrato al Cinderella Ballroom, la sala da ballo di Cenerentola praticamente, a Detroit, Michigan, il 22 aprile del 1972. Il brano che ho scelto per voi si chiama Hard Driving Man, loro sono la Jay Gills Band. Seven more minutes before I say bye-bye. Hard driving man, hard driving man, hard driving man, driving just as hard as I can. Got me a train down in Texas, I took it up to Montreal. Got me a gal in old 51 and I hope my rig don't stall. Hard driving man, hard driving man, hard driving man. I'm driving just as hard as I can. Driving, baby. Baby, baby, you're looking so good to me, baby. We're gonna get a little piano in there. love you. When you gotta help us like this, watch. You heard of the Boogaloo? You heard of the Boston Monkey? You heard of the Philly Freeze? We got the Detroit Demolition here for you tonight. Care at all. Ricordo ancora abbastanza vividamente, malgrado il lasso di tempo trascorso, la Jaggi's Band aprire il concerto di Emerson, Lake & Palmer allo stadio qui a Bologna tantissimi ma tantissimi anni fa, e furono sonoramente fischiati perché l'accostamento fra questo tipo di musica e quella di Emerson, Lake & Palmer, che allora erano il top in assoluto della musica mondiale, fu veramente un errore abbastanza tragico, soprattutto per quel che riguarda il pubblico italiano, che è molto settoriale. Se uno va a ascoltare Emerson, Lake & Palmer, vuole che il gruppo spalla prima sia nell'ambito musicale di Emerson, Lake & Palmer. Invece, come avete sentito, la Jaggi's Band era tutta un'altra cosa. Comunque, grande, grande band, si chiama Live Full House, l'album che ci siamo ascoltati, registrato a Detroit il 22 di aprile del 1972, Hard Driving Man, il brano che ci siamo ascoltati. Ci ha lasciati sul finire del 2025 lasciando un grande vuoto, come si suol dire. Era esattamente il 15 dicembre. Sto parlando di Joe Ely, grande grande personaggio che veniva dal Texas ed è stato attivo fin dal 1970 fino alla morte, ed è un personaggio che è abbastanza eclettico, sempre in un ambito musicale rock. Addirittura per un tour o due supportò i Clash, e da lì nacque una collaborazione notevole. C'è anche un singolo che racchiuso il primo live di Joe Ely che lo vede suonare insieme ai Clash. Ha fatto 6 album dal vivo, questo è il secondo. Il primo appunto era quello che conteneva l'extended play insieme ai Clash, e è stato registrato nella sua città natale praticamente, anche se lui non era esattamente di Austin, Texas, il 22 aprile del 1989. Chi segue le mie trasmissioni sa che a me piacciono molto i brani lunghi, quelli che cominciano lentamente e poi c'è tutto un crescendo fino al finale che spacca, come dicono i ragazzi di adesso. Ce l'andiamo ad ascoltare, Joe Ely, il brano si chiama Letter to LA, una lettera a Los Angeles, 22 aprile 1989, l'album si chiama Live at Liberty Lounge, dove è stato registrato. Thank you. This song is a letter to the city of the angels. The land of fire drills and freeways. Billboards and magazines. The wheel of fortune. Like an Alfred Hitchcock lover, who slowly goes out of control. Your love is like the city, only shines at night. Your love has no pity. Baby, baby, that's all right. Vanity is your castle. You're like a neon sign, and the poor lost souls in your shadows. You forget they're friends of mine. Your love is like Well, Johnny Vane lost his head when you broke a young girl's heart. And Cecil B. DeMille once gave to you the cast of millions part. Ha! Your love is like the sea, only shine that night. Your love has no pity. Baby, baby, that's all right. Baby, sky. my mind, treasure my only. This is not my sky, not my sky. This is not my sky, this is not my sky. Sono stati fra i precursori del cosiddetto Britpop, venivano da Londra, anzi vengono tuttora da Londra, perché si sono formati nell'86, si sono sciolti naturalmente 1986, si sono sciolti una prima volta nel 1993, poi sono riuniti nel 2003, sono tuttora attivi, si chiamano House of Love. E come vi dicevo, sono stati i precursori di quello che è stato il Britpop, con diverse influenze anche a carattere psichedelico. Hanno fatto un solo album dal vivo, e in più c'è questa compilation live che si chiama semplicemente Live at the BBC. Sono quattro estratti da quattro concerti diversi. Questo in particolare, alcune settimane fa abbiamo ascoltato diverse registrazioni effettuate al Marquis già in tempi lontani, questo invece è più recente perché è del 1991, naturalmente al Marquis di Londra, 22 aprile. Il brano che ci siamo ascoltati dagli House of Love si chiama Hannah. E nell'arco degli anni, vista la mia veneranda età, ho visto tantissime bands con nomi strani, e questo forse è quello più strano. Si chiama tre puntini iniziali, And You Will Know Us by the Trail of Dead, e tu ci conoscerai attraverso il percorso della morte, un nome non molto incoraggiante a dire il vero, da una band che viene da Austin, Texas, ma di texano veramente zero. Sono attivi dal 1994, hanno avuto un paio di anni di break dal 2023 al 2025, poi sono tuttora in giro con un grande successo ancora nelle college radio americane. Hanno fatto una serie di album live, questo è uno di quelli, è un instant live come si suol dire, cioè uno di quegli album che vengono registrati durante il concerto e venduti alla fine del concerto. Poi naturalmente c'è sempre un sovrannumero che viene poi venduto o nei negozi specializzati o su internet. Siamo al metro di Chicago il 22 aprile 2005, loro si chiamano, lo ripeto, And You Will Know Us by the Trail of Dead, Aged Dolls invece è il titolo del brano. trip, a trip, on to the tombs of the soulless. A trip on your egg on top. A trip as the fire we cylinder. On to the swelter. Thank you. Per gli amici sono semplicemente Trail of Dead, in realtà il loro nome completo è And You Will Know Us by the Trail of Dead, completo di tre puntini prima di End, quindi è il proseguo di una frase della quale non vi so dire l'inizio, ma che sicuramente come nome di band è abbastanza particolare. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Aged Dolls, arriva da una registrazione effettuata al metro di Chicago, Illinois naturalmente, Stati Uniti, il 22 aprile del 2005, e Aged Dolls il titolo del brano. Believe it or not. Siamo praticamente arrivati alla conclusione, ci sarebbero ancora due cose, ma una è quella del 2021, non riesco proprio a farcela stare e non vi dirò assolutamente di chi si tratta, ma vi faccio ascoltare invece questa registrazione del 2016. Non prima però di avervi ricordato che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì che viene in terra, mercoledì che vede in scena appunto dalle 10.30 in poi musica registrata dal vivo rigorosamente ufficiale dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, oppure con il DAB in tutta l'Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, e attraverso l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Potete anche ascoltarci in tutto il mondo, e ho sentito di gente che lo fa, e questo mi fa molto piacere. Il brano conclusivo con cui si conclude Recorded Today e anche tutto il Città Fujiko Live Club di oggi arriva da una band che viene da Burlington, North Carolina, ed è attiva dal 2009. Big Something si chiama, è uno dei maggiori gruppi appartenenti a quel filone che si chiama jam bands, che vi faccio ascoltare tutte le volte che posso perché a me piacciono molto. Avevano una particolarità, hanno tuttora una particolarità: con $5 al mese potete scaricare tutti i concerti che fanno, perché loro li mettono tutti online e con una fedeltà perfetta, e appunto $5 al mese. Dopo qualche mese ho smesso perché mi avevano inondato di concerti, visto che suonano praticamente tutte le sere. Questo è stato registrato a Raleigh, sempre in North Carolina, al Lincoln Theater, ed è un brano che da parte di Big Something, che sono solito omaggiare personaggi più o meno fittizi, più o meno veri. Questo invece è un personaggio letterario, ma che ha avuto un successo strepitoso e che sicuramente conoscerete. Si chiama Frankenstein o Frankenstein, dipende dal film che vedete. Big Something la band, era il 22 aprile del 2016. Ciao a tutti da Nevio. filled with rust, 'cause the ride's been a little rough. And my heart is full and seeds been planted with all the love I took for granted. It made me who I am, like a tattoo on my soul. And I wish I could slow this old machine down, but it's something I can't.